madammina. Il catalogo è questo, delle belle che a voi padron mio, un catalogo che gli ha fatti. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003. Queste contadine, cameriere cittadine, marcottesse, baronesse, marchesine, principesse, i valvanti, togli grano, togli farfa, togli erba, togli farfa, togli erba. In Italia, 640, in Germania, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna, sono già 1003, 1003, 1003. Queste contadine, cameriere, cittadine, raccontesse, baronesse, marchesine, principesse, viva ogni, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. beffa. Voi sapete lei che fa Yeah.